in primo piano. Buongiorno e buona domenica e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 da Giulia Crivelli. Oggi i giornali sono molto concentrati sulla questione del lavoro e sulla riforma del lavoro, che è la grande riforma con il cosiddetto Jobs Act, che verrà affrontata e sta in questi giorni, proprio viene affrontata dal governo e dal premier Renzi. Tantissime le polemiche, le avete sentite, le chiamo polemiche perché a volte appunto sembrano davvero mondi contrapposti ed è molto difficile mettere i fatti sul tavolo e discuterne con serenità, tant'è che è proprio quello che titola su questa mancanza di serenità e di capacità di discutere, titola il Corriere della Sera: Renzi sfida la vecchia guardia, un decreto se i conservatori frenano. Sapete che è questo che ha annunciato il Premier con Susanna Camusso, leader della CGIL, che ha risposto: discutiamo, perché si vuole appunto evitare questo strappo e addirittura la minaccia di uno sciopero generale. Sul tema del lavoro, sul Corriere della Sera, trovate un'intervista anche sul tema del lavoro al ministro dell'economia Padoan: taglieremo le tasse sulle imprese, perché questo naturalmente è anche un modo per rimettere in moto la crescita e permettere magari con dei risparmi sulle tasse di liberare risorse appunto per nuove assunzioni. Lo trovate a pagina 11 del Corriere. La fotonotizia è dedicata all'anticipo di ieri, lo avete sentito, insomma la Juventus resta saldamente in vetta a questo inizio di campionato perché ha battuto il Milan 1-0. Ma veniamo subito al Sole 24 Ore, che invece si concentra nel titolo principale sul G20 che è in corso in Australia. Allarme sulla crescita, via libera l'enorme anti-elusione fiscale delle multinazionali. Questo è un tema molto importante, l'elusione non è l'evasione, l'elusione è, per intenderci, per esempio quella che la strada che ha intrapreso Burger King, che avendo comprato un'azienda canadese riesce così a pagare le tasse in Canada che sono inferiori, potrebbe riuscire a pagare le tasse in Canada, l'operazione non è ancora stata perfezionata l'imposizione fiscale in Canada è minore che negli Stati Uniti. Ripeto, è tutto legale, però è un modo per eludere le tasse che naturalmente toglie risorse agli stati a cui le aziende appartengono. C'è l'analisi di sempre in prima pagina di Michael Spence, che è un microeconomista esperto di teoria dei giochi nonché premio Nobel, che spiega quali sono per lui le tre vie per la ripartenza europea. Sulla prima pagina della Sole 24 Ore trovate anche un richiamo di un'intervista a Bersani di Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore: bene le tutele crescenti, torniamo al tema del lavoro, sì al tempo indeterminato flessibile. E poi un'altra intervista che poi trovate a pagina 10 di Marco Lodovico a Raffaele Cantone, che sapete è ex magistrato e ora presidente dell'autorità anticorruzione, nonché diciamo commissario straordinario dell'Expo, dove Expo 2015, la grande esposizione universale che inizierà nel maggio dell'anno prossimo qui a Milano e che purtroppo è già stata infiltrata da criminalità organizzata e ci sono già stati denunciati moltissimi episodi di corruzione, da cui l'arrivo di Raffaele Cantone. La lettera al risparmiatore, come ogni domenica sul Sole 24 Ore, Vittorio Carlini si concentra su un titolo quotato e oggi è la Carige, la banca, la Cassa di Risparmio di Genova, al centro degli scandali perché è stato arrestato il suo amministratore delegato nei mesi scorsi, lo ricorderete. La sfida di Carige: credito più efficiente, focus su consulenza e risparmio gestito. Trovate tutti i consigli al risparmiatore poi a pagina 22. Vi segnalo anche, perché a Milano in questo momento ci sono c'è la cosiddetta settimana della moda che si conclude domani in passerella e negli showroom ci sono tutte le collezioni per la prossima primavera estate, quindi non sono cose che possiamo già mettere ma che potremo mettere tra qualche mese. E naturalmente a margine delle sfilate poi ci sono anche tanti altri temi e Paola Bottelli ci racconta, richiamato in prima pagina il suo articolo, ci racconta a pagina 19 come forse dopo tanti tira e molla, perché questa è un po' un'odissea che va avanti non da mesi ma da anni, dopo appunto tanti anni Roberto Cavalli, lo stilista e imprenditore, si sarebbe deciso in effetti a vendere. Vendo ma resto nell'azienda, questo è il titolo dell'articolo, perché sarebbe vicina una cessione a un gruppo russo di una parte dell'azienda, probabilmente il 50-60%, non è ancora chiaro. La Repubblica, anche in questo caso focus sul lavoro, Renzi spacca il PD contro il Jobs Act, 110 parlamentari. Sapete che quando abbiamo parlato di polemiche non sono solo quelle che vedono il Partito Democratico del Premier opposto alla CGIL, ma anche tutta l'opposizione interna che il Premier ha. L'intervista qui è a Poletti, ministro del lavoro, trattiamo sull'articolo 18 oppure subito il decreto, quindi allineato con la posizione del Premier che appunto dice o si tratta però in modo serio e possibilmente sereno con il principale sindacato italiano e le altre parti sociali oppure si procede per decreto. Questo è quello sostanzialmente che ha detto ieri Renzi. C'è un approfondimento poi di Gad Lerner che continua poi a pagina 13 sulla questione dell'ENI. Sapete che lì c'è tutto il problema delle tangenti, sono indagati sia l'attuale amministratore legato che il precedente Scaroni, quindi Descalzi e Scaroni. Gad Lerner ha incontrato Descalzi che dice mai preso tangenti, all'ENI decideva tutto Scaroni, una pagina intera, la 13 all'interno. Scalfari si esercita di nuovo su temi che non sono proprio suoi, perché lui è un non credente, però si esercita su temi religiosi. San Pietro era sposato ma seguì Gesù e lasciò a casa la moglie, e si ricollega naturalmente a quello di cui si sta parlando molto in questi giorni, che sono le procedure di annullamento del matrimonio, ma anche la comunione ai divorziati, insomma appunto temi che, ripeto, non sarebbero proprio di un laico, ma fondatore, ex direttore di Repubblica Eugenio Scalfari, il suo intervento della domenica, il suo editoriale della domenica è dedicato a questo. La Stampa, anche in questo caso, si concentra sul lavoro, assegno ai precari senza lavoro, perché in questa grande riforma che è il Jobs Act c'è anche un sussidio di disoccupazione che arriverebbe a 1000 euro. Sapete che è una cosa che in Italia per ora non esiste, siamo uno dei pochi paesi europei che non ha un vero e proprio sussidio di disoccupazione, che è cosa diversa naturalmente, è un ammortizzatore sociale diverso dalla cassa integrazione o da altre misure. Il piano del governo appunto includerebbe anche questo. L'editoriale di Luca Ricolfi, qualcosa è cambiato, e vi leggo soltanto una piccola parte per capire un po' il tono di questo editoriale. Renzi ha ragioni da vendere, il riferimento è a quando dice che il sindacato ha sbagliato a tutelare solo chi sostanzialmente il lavoro ce l'ha e a lasciare che crescesse il precariato, salvo poi ora denunciarlo a gran voce. Perché la divisione fra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, garantiti e non garantiti, insider e outsider, è effettivamente uno dei nodi fondamentali dell'Italia, se non il nodo fondamentale. E poi lo trovate l'articolo a pagina 21. Vi segnalo, perché l'ho trovato solo sulla Stampa, una notizia curiosa sulla quotazione del tartufo quest'anno. Ci si avvicina alla raccolta che sta partendo in questi giorni di questo preziosissimo tubero. Prezzi in calo e qualità, l'anno d'oro del tartufo, da 300 a 200 euro al letto la raccolta al via. Insomma, è stato per il meteo, ha procurato danni a tante altre culture a partire dal vino, naturalmente sappiamo, però invece il tartufo è andata molto bene, quindi ce n'è tanto, di buona qualità e costa un po' meno del solito. Il Messaggero anche a sua volta apre sulla questione del lavoro, articolo 18, ecco gli indennizi, anche qui viene analizzato quello che poi dovrà essere presentato nel dettaglio, il piano del governo sul lavoro. C'è un'intervista a Marianna Madia, ministro della pubblica amministrazione, nessuno perderà diritti dal nuovo modello più occupazione, quindi anche lei commenta questa riforma e fa parte di quella stretta cerchia di ministri molto vicini al Premier che difendono, fanno eco, diciamo, alle dichiarazioni di Renzi, difendendo appunto le sue posizioni. Molto interessante l'intervista alla presidente della RAI Tarantola, che dice tra l'altro, questo è il titolo che sceglie il Messaggero, la RAI deve educare, basta con certi talk show. L'intervista è di Maria Latella, la trovate a pagina 11. Tarantola dice anche: dimettermi non decido io, ma se me lo chiedessero lo farei. E poi un approfondimento su una questione, su una delle tante questioni di cronaca che ci perdiamo un po' per strada perché magari non si riesce a seguire tutto, e sono le due ragazze rapite in Siria, le due volontarie italiane rapite in Siria, Greta Lamelli e Vanessa Marzullo. La fotonotizia: rivelazioni dal Libano prese per il riscatto, le trattative sarebbero vicine a una svolta. La prima pagina dell'Avvenire, anche in questo caso tutta concentrata sul lavoro, toni duri e prove di trattativa, con le due dichiarazioni dei due principali contendenti di ieri, cioè Renzi che ha ridetto basta agli ideologismi, e la Camusso che ha risposto basta con gli atti di forza. La fotonotizia è dedicata a Papa Francesco, è una foto scattata a Tirana, come avete sentito nei GR in Oltretevere, Papa Francesco appunto farà questa visita lampo di 14 ore ai nostri vicini albanesi. Il giornale Renzi non paga, trattiamo, qui la questione è quella dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese, con un approfondimento che dopo vedremo. Libero, il bluff di Renzi sui disoccupati, tutto un approfondimento molto critico su questa annunciata riforma, anche questo magari lo vedremo dopo nel dettaglio. E l'ultima copertina che riesco a segnalarvi prima della pausa per il meteo è quella del Manifesto, cambio di stagione, cambiamo anche completamente argomento, oggi infatti a New York c'è la People's Climate March, che è una iniziativa per sensibilizzare ancora sui cambiamenti climatici, ma in generale sui danni che la nostra specie, questa specie un po' parassita che siamo noi, l'essere umano, sta facendo al pianeta. Ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto le prime pagine dei giornali, quasi tutte dedicate alla riforma del lavoro e alla grande discussione che è in atto tra governo e sindacati e parti sociali. Il Manifesto, forse un po' stranamente, non titola su questo, anche se un titolo in prima pagina sul lavoro c'è, e dicevamo invece titola sulla grande manifestazione che ci sarà oggi a New York per sensibilizzare ancora una volta sui cambiamenti climatici. C'è un estratto del nuovo libro di Naomi Klein, che ricorderete, la famosa autrice di No Logo, perché questo nuovo libro è proprio dedicato all'ambiente. Il titolo dedicato al lavoro invece mi fa un po' ridere: Il Thatcher spacca CGIL e CISL. Il Thatcher naturalmente è Matteo Renzi, che così è stato accusato di essere una brutta copia, diciamo, della Thatcher dai sindacati. Naturalmente l'accusa è venuta dai sindacati e quindi il Manifesto lo chiama così. E poi ricorda anche che ieri si è riacceso lo scontro con Bersani, tra Matteo Renzi e Pierluigi Bersani, che ha appunto definito l'ex segretario del PD la vecchia guardia che si mette un po' di mezzo alle riforme. Dicevamo che appunto il problema non è soltanto vedere contrapposto il governo e in particolare il Premier e il PD ai sindacati, ma anche il problema è anche l'opposizione interna al PD. Il Fatto Quotidiano, 10 aziende in 30 anni e un solo assunto Matteo, anche qui molto critico, un po' come lo sono il giornale Libero nei confronti di Matteo Renzi. Il Fatto Quotidiano: Renzi accusa i sindacati di creare precarietà, ma il padre, sapete che nei giorni scorsi il padre di Matteo Renzi è stato indagato per bancarotta fraudolenta, è uno specialista del ramo. In tutta la sua attività imprenditoriale, che ha fruttato oltre 8 milioni di euro, ha usato sempre solo contratti atipici. Intanto l'inchiesta dei PM di Genova si allarga a altre imprese collegate, perché questa inchiesta che dicevamo per bancarotta fraudolenta è appunto per un'attività che il padre di Renzi aveva a Genova. Citiamo velocemente la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che come immaginerete è dedicata alla partita di ieri sera. Il Milan è stato sconfitto per 1-0 dalla Juventus qui a Milano. Allegri, virgola, c'è Tevez, che è l'autore del gol, e naturalmente poi oggi invece ci sono tutte le altre partite. Ma veniamo alle pagine interne, cominciando dal Corriere della Sera. Vi segnalo un sondaggio di Nando Pagnoncelli che si è concentrato in particolare sui Movimento 5 Stelle. Il titolo è: Grillo scontenta oltre un quinto del suo elettorato. Ci sarebbe un giudizio negativo dal 71% dei cittadini, però con questo interessante risvolto. Gli italiani si dividono sul valore delle proposte. Il 46% del campione ritiene che le idee del Movimento 5 Stelle siano incoerenti e finalizzate al consenso. Il 49% è di parere opposto, cioè ritiene che le idee siano coerenti. Quindi si ripropone un po' il problema di come vengono esposte queste idee. Ieri lo avrete forse sentito, Grillo ha di nuovo fatto uno show, questa volta in Puglia contro un gasdotto. Quindi forse il problema è questo, di come vengono poste, di quindi come vengono urlate queste idee, che poi però se valutate con calma da questo campione, per esempio dal campione usato in questo sondaggio, appunto, poi fanno restare alto il consenso tra chi ha tra 30 e 50 anni, anche se sempre dal sondaggio emerge che il successo di Renzi ha indebolito il Movimento 5 Stelle. dicevamo, le questioni che ci perdiamo un po' per strada quando escono dalla, no, quando non ci sono fatti di cronaca che le riportano sui giornali o nei titoli dei telegiornali, qui parliamo di Ebola. Michele Farina si addentra su una questione che è quella dei farmaci. Sapete che in realtà non esiste a oggi un vaccino per Ebola, si sono fatte delle corsie preferenziali per quelli che erano in via di sperimentazione, e ora il dilemma è il farmaci per Ebola solo per i medici occidentali è una questione morale, scrive Michele Farina. La scelta di quali pazienti curare con le poche medicine disponibili è morale, ma anche pratica e sociale, perché naturalmente curare un medico vuol dire permettere che quel medico continui a fare il suo lavoro, curare un paziente magari e non il medico, viceversa vuol dire che magari i medici vengono messi a rischio, ma sono dilemmi, non c'è neanche bisogno che lo spieghi, appunto non da poco, morali ma anche sociali e pratici. E poi un approfondimento da San Francisco di Massimo Gaggi, che ha intervistato il presidente di Stanford Hennessy, che dice basta lezioni conferenza, quindi un'idea diversa di università, secondo il presidente di Stanford, che è una delle più importanti università private americane, della California in particolare. Sparirà l'insegnamento del professore in cattedra, ma non il campus, perché il rapporto con il docente resta essenziale. Secondo sempre Hennessy, il prossimo business sarà la formazione continua, molta della quale online, di professionisti che devono continuare ad aggiornarsi. Veniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, che come abbiamo visto apriva sul G20. L'approfondimento su tutto quello che sta succedendo in Australia è di Alessandro Merli, ma vi segnalo poi anche l'approfondimento di Marco Bellinazzo e Davide Rotondo su quel tema che dicevamo dell'elusione fiscale barra evasione. Quindi c'è un'agenda fiscale proprio al vertice, con trasparenza e multilateralismo contro l'evasione. I numeri, due numeri impressionanti, sono 47,5 miliardi il frutto della lotta anti-elusione. Da quando 5 anni fa gli Stati Uniti hanno messo nel mirino le scappatelle fiscali offerte alle cosiddette lacune transfrontaliere, sono stati incassati 37 miliardi di euro di tasse in più. Vi segnalo poi l'altra questione che ci riguarda un po' tutti, che è quella della TASI. Ancora in molti non sappiamo, a Milano anche in tanti non sappiamo come pagare, quanto pagare. Regole complesse, importi talora bassi, rischio di mancati pagamenti per la quota sugli affitti. Quindi il titolo è TASI impossibile per gli inquilini, perché sapete che sono un po' cambiate anche le regole della suddivisione di questa tassa tra proprietari e inquilini. Domani c'è con il Sole 24 Ore un inserto proprio dedicato alla TASI, che sapete è da pagare entro il 16 ottobre, e poi mercoledì invece nell'esperto risponde il focus è proprio su come pagare, quindi questi strumenti molto pratici che trovate sul Sole 24 Ore di lunedì e sul Sole 24 Ore di mercoledì, sempre per pagare questa tassa. Dalle pagine interne di Repubblica un approfondimento su una questione che a guardarla così sembra veramente a un po' dell'assurdo, ma in realtà non si sta risolvendo, quindi dobbiamo continuare a occuparcene, che è quella delle nomine del CSM, della Consulta. Il PD punta sul flop di Bruno, che è il candidato, sapete, Donato Bruno, il candidato, un senatore di Forza Italia, candidato azzurro alla Consulta. E poi c'è Felice Casson, ex magistrato, ora senatore del PD, che è molto critico verso il governo Renzi e per come è stata gestita questa questione del CSM. Secondo Casson non si può votare Donato Bruno, che deve ritirarsi perché è un caso politico. Sapete che Donato Bruno è indagato, quindi, però ha già risposto: l'inchiesta è roba vecchia di 6 mesi, venne da me persino un giornalista di Report, guardatevi la puntata. Lui ha detto che non si ritira, continua a essere il candidato di Forza Italia, continua il muro contro muro, non ci si riesce a mettere d'accordo e il CSM resta senza appunto un membro, quindi non è ancora risolta questa questione, che va avanti da più di 2 settimane. Dalla Francia un approfondimento di Anaïs Ginori da Parigi su Sarkozy, che è uno di potrebbe forse tornare in campo. Sapete che la popolarità dell'attuale presidente Hollande è ai minimi storici, credo sia forse il meno popolare presidente della storia della Francia del dopoguerra, e quindi si pensa già alle prossime elezioni politiche. L'attuale governo è un governo di centrosinistra, anche se c'è stato un reimpasto che ha spostato l'asse un pochino verso il centro, sapete, col cambiamento del ministro dell'economia, però naturalmente Sarkozy, che invece è rappresentante del centrodestra, si potrebbe candidare per il centrodestra, e ora la sua sfida di Sarkozy, sedurre le classi popolari dimenticate dalla sinistra. dalla stampa, un approfondimento sui debiti dello Stato, l'avete visto anche sulla prima pagina del giornale, mancano i rimborsi per oltre 20 miliardi. Questo era stato uno dei primi provvedimenti annunciati con molta enfasi dal governo Renzi, ma anche da governi precedenti. In realtà, dall'analisi che fa Paolo Baroni, la situazione non è proprio risolta. E tra l'altro c'è una tabella che fa molta impressione con i ritardi, e noi l'Italia è al primo posto per i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione dei debiti alle imprese private. Subito dopo vengono la Grecia, la Spagna, il Portogallo, Cipro e Belgio, mentre chi paga più in fretta è la Finlandia. Noi comunque la nostra media è di 165 giorni, l'Italia paga la media dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese private è di 165 giorni, pensate che in Finlandia è 24, e la media europea comunque è 58, che quindi è praticamente un terzo del dato italiano. E non dalla stampa, ma dal Messaggero, vi dicevo l'intervista a Marianna Madia, che è ministro della pubblica amministrazione, ma parla anche di lavoro. E poi un altro sondaggio, abbiamo visto quello di Pagnoncelli sul Movimento 5 Stelle, qui è un sondaggio della SVG che il titolo è un po' inquietante, però poi lo spieghiamo, è un italiano su quattro dittatura pur di fare le riforme. Un italiano su quattro è così. Leggo letteralmente, perché questa è la parola usata dal Diodato Pirone, il giornalista del Messaggero, è così incazzato che preferirebbe una dittatura pur di varare le riforme. Il dato emerso a sorpresa nell'ultima rilevazione SVG testimonia del livello di rabbia e di stanchezza che si sta diffondendo in Italia. Appunto, da qui l'uso forse della parola un po' forte, un po' inusuale in un articolo della carta stampata. Interessante, a pagina 7, l'ho trovato solo sul Messaggero, Berlusconi pronto a ricandidarmi, l'ex cavaliere torna in pubblico a un raduno organizzato dall'ex ministro Gelmini, non mi auguro urne subito, quando ci saranno però io correrò, conferma quindi l'ipotesi che non ha intenzione di ritirarsi, ma che alla prima occasione, cioè importante, quella delle elezioni politiche, lui sarà di nuovo in campo. Ci fermiamo un attimo per il traffico e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Per l'ultima parte della rassegna stampa vi segnalo due articoli dall'Avvenire. Uno, un approfondimento che sugli altri giornali è fatto in maniera molto meno completa, che è quello sull'intesa, sulla tregua che c'è finalmente stata in Ucraina. L'Ucraina vede la pace, intesa in 9 punti, questo accordo a Minsk, l'articolo è di Giorgio Ferrari che è inviato a Kiev, la capitale dell'Ucraina, zone cuscinetto e disarmo, ma la paura prevale sulla speranza. Quindi speriamo che appunto la situazione sia completamente normalizzata con la Russia, dopo le tante tensioni, anche poi che si sono ripercosse sui rapporti tra la Russia e l'Unione Europea, però appunto bisogna un po' stare a vedere. E poi vi segnalo un altro interessante approfondimento che riguarda l'eterologa. Sapete che non abbiamo ancora una legge, si procede un po', le regioni procedono in ordine sparso su questa questione, ma le associazioni denunciano, c'è stata questa corsia veloce per l'eterologa, le adozioni restano al palo. Pensate che a questo punto ci sono 25 giorni per approvare le linee guida della fecondazione, ma ancora si aspettano i protocolli operativi per l'adozione previsti dalla riforma del 1998. Pensate a quante coppie hanno iniziato questa odissea a volte dell'adozione, ma anche in questo caso non c'è una legge che li tuteli o che comunque renda questo percorso il più semplice, anche se non sarà mai semplice davvero, possibile. Passiamo ai supplementi della domenica e cominciamo naturalmente dal nostro, la domenica del Sole 24 Ore, come sempre il breviario di Gianfranco Ravasi, sapete una mia passione. Oggi si intitola Lo schiavo padrone, la citazione è di un autore finlandese. Non tutti gli schiavi aspirano alla libertà, la maggior parte di loro vuole diventare padrone. Tempo fa mi è stato regalato un volume intitolato Poeti e aforisti in Finlandia, pubblicato lo scorso anno dalle edizioni del Foglio Clandestino. L'invalicabile difficoltà di questa lingua lascia spesso nel gelo di quella terra un sorprendente fervore letterario che questo libro svela. È così che incontro fra gli altri un a me ignoto Samuli Paronen, che lassù è invece un autore di culto. A lui devo questa amara considerazione. Quante volte nella storia è accaduto che le vittime, una volta liberate, sono diventate carnefici. L'oppresso non si si è accontentato della libertà conquistata, ma si è trasformato in tiranno. È una lezione che non c'è verso di imparare, con buona pace di un altro autore di quell'antologia, Paavo Avicco, che afferma: il momento cruciale è quando l'oppresso diventa oppressore, allora la storia riprende fiato e comincia a insegnare. Ma la copertina è dedicata in realtà alla collana di libri, a un piano di libri che verranno, che si potranno comprare col Sole 24 Ore a partire dal 27 settembre per 12 settimane, che sono 12 figure di grandi gesuiti, gesuiti maestri di storia di vita. Il primo naturalmente è Ignazio da Loyola, che è il fondatore della Compagnia di Gesù, a cui sappiamo appartiene anche Papa Francesco. Il memorandum del nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, parte da un racconto di Valentina, che è una giovane ricercatrice che avrebbe tanto voluto lavorare in Italia, ma che ora andrà a lavorare all'estero per le solite delusioni che il nostro paese a volte suscita nei giovani anche volenterosi. E quindi conclude il nostro direttore: non basta cambiare i presidenti, se restano i mandarini di sempre che sanno solo bloccare qualunque cosa, e si rinuncia a valorizzare le risorse importanti che ancora sopravvivono con il loro bagaglio di capacità e esperienza. Un paese serio non può tollerare a lungo una situazione simile. Poi vi segnalo la quarta lettera inventata di Giacomo Leopardi al Domenicale, che sapete c'è questa studiosa Antonella Antonia Paolini, che utilizza dei brani, delle opere, in questo caso l'Epistolario e lo Zibaldone del grandissimo poeta, per inventarsi un po' delle lettere immaginarie. Oggi il tema è quello dello studio. Studenti, appassionatevi alla ragione. E poi vi segnalo anche un libro che è recensito anche qui da Gianfranco Ravasi sull'invidia, quello che Shakespeare chiamava il mostro verde che divora. È un libro appunto dedicato all'invidia, Il volto torvo dell'invidia, è un trattatello di Cipriano di Cartagine, appena ripubblicato dalle Edizioni San Paolo. Era vescovo appunto Cipriano di Cartagine nel III secolo, e tenta di definire quello che viene a sua volta definito da Ravasi un sentimento angoscioso con effetti disastrosi, però ne indica anche gli antichi: umiltà e carità. Il supplemento del Corriere della Sera, la lettura, vi segnalo dall'interno un articolo di Serena Danna, sotto siamo tutti troll, con un approfondimento su questa che tutti credo più o meno abbiamo sperimentato, questa aggressività che a volte si scatena in rete, in particolare sui social network. Quello che ci cerca di spiegarci Serena Danna, avendo analizzato molte analisi fatte su questi temi, è: sentirsi maggioranza e non l'anonimato nutre l'aggressività nei social network. Un bellissimo approfondimento di Severino Colombo su un concorso che ha messo alla prova illustratori da tutto il mondo perché narrassero soltanto con le immagini, ha vinto un ex carrozziere di Dublino con le avventure di un animaletto curioso, storie che restano senza parole. Sono naturalmente le immagini, oltre a questa piccola spiegazione le trovate a pagina 20 e 21 della lettura. La domenica invece della Repubblica, la copertina dedicata Annibali, questo nostro giovane ciclista che ha vinto Vuelta, Giro e Tour e che ora pedala sui mondiali. Sono ancora il ragazzino che sognava una bandana, infatti la foto è quella di un Annibali giovanissimo con il suo mare siciliano sullo sfondo. Vi segnalo anche un racconto che viene da Israele sul mondo degli ebrei ortodossi, che sapete hanno un grande peso politico anche in Israele, anche sulle scelte del governo. E qui mi viene da dire che un'altra cosa che ci siamo un po' persi per strada è l'aggiornamento su quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza, ma speriamo che la tregua appunto regga e che non se ne parli, perché è tutto tranquillo. C'è l'incontro della domenica di Mario Serenellini con Stephen King, uno dei più grandi scrittori viventi e anche i più prolifici di sempre, che dice: i miei libri sono autobiografici quanto alla mia dipendenza da alcol e droga, non sono mai stato violento, non ho mai picchiato i miei figli ed è sempre l'immaginazione a prevalere, però insomma ammette che questo problema in passato l'ha avuto. Sempre bella intervista su due pagine della serie Straparlando di Antonio Gnoli, forse avrete letto quella abbastanza impressionante di settimana scorsa a Sebastiano Vassalli. Oggi invece Mario Andreose, che è una grande figura dell'editoria italiana: il mondo dell'editoria sta sparendo, salviamo ciò che abbiamo imparato. È uno che ha lavorato in passato con Moravia, per Mondadori, per Umberto Eco, e ci racconta un po' tutti appunto il suo passato di grande amante dei libri. L'ultima segnalazione che riesco a farvi è della rubrica di Walter City dedicata alla poesia. Oggi l'autore scelto è Attila Josef, morto nel 1937, un poeta ungherese, uno dei più importanti. era veramente l'ultima segnalazione, ma oggi sui giornali tantissimi articoli, come avrete intuito. Io ringrazio Carmelo Lauricella in regia, che mi ha tenuto nei tempi, o almeno ci ha provato, e auguro una buona domenica a tutti.